davanti sei pieno di fischi fischietti. Fischio fischietto, fischio fischietto. E beh, non parli. Ciao Giù. Ciao Natalì. C'è da uno che non si può procedere, guarda che tu lo procedi. Con la, con l'innesco. No, ce l'avevo io l'innesco. Ah, tu ce l'avevi, ho capito. Mi stavo ascoltando la radio, stavo ascoltando le canzoni sassarese. Vabbè, ogni tanto mettevo uno spezzone per svegliare qualcuno. Eccomi qua. E io stavo cucinando, stavo, capito. Adesso aspetto che... che bollisce l'acqua, così almeno butto la pasta. Se la butti poi cosa mangi? Vai, non la buttare, se no poi non ne hai da mangiare. Sempre mi sento a mangiare, non è possibile. Vai, non ne mangiare, chi te lo fa fare? Fai fatica inutilmente. Perché mi devo prendere la pastiglia e mica devo mangiare. Capito? Dai, non le prendere, non prendere niente, niente, niente. Beviti un cicchetto e basta. Avrei ma fa così. Magari si potesse fare così e basta. Ma sarebbe bello. E vabbè, dai, adesso prima stavo leggendo qualche spezzone del giornale, stavo leggendo, adesso da un po' ho acceso la radio e appunto mi sono messo qua, così, tanto per ascoltare, dai, passare il tempo. E infatti, ma ho visto che ieri già è entrata un po' di gente. Ieri, sì. Ma ieri c'ero anch'io, c'ero, no? Sì che c'ero. Sì che c'è. Appunto, sì che... quando chiacchiere già le abbiamo fatte, la speriamo bene. Stasera magari non si sa se ci sarà qualcuno, anche perché stasera il tempo migliorerà, perlomeno stando a quello che dice il meteo. E forse chi su chi può fare, tanto non comandiamo noi. Ci comanda chi tu disobbra. E infatti, è di quello sempre, che pizza, tutti si buono, di questo problema, e magari te lo mangi va, politica questo problema in capo, se non c'è motivo. Maga vaga, daga sta fa, noi non sapremmo fare niente. E vabbè, pure se piove non mi interessa, tanto io non voglio andare a lungo. E se no io, figureggiate un poco, tanto mi nafutti, tanto gli appiovi volami. E beh, senza dubbio, sì, ma rimane casa, mi ha battuto una battita, mi. Tanto non è più di una, a rimane me l'ha già battuto una, ad esempio, la Juventus, questa squadra di cadaveri. Vedo Juventino sono, basta di dare, non mi piace come ti gioca questa squadra mia, no. E allora pronti peggio, telefoneggio a Elkan, al padrono, e gli dico a Ciamballa questa squadra, che non mi piace. E quello pure è un tuo diritto, se non ti piace, non ti piace. E infatti ce ne sei andato proprio perché c'era la partita ieri. Sì, quando c'è la partita, per me è una manna dal cielo, per cui naturalmente poi ci può essere una partita che non mi interessa più di tanto, però quando si tratta di Juve, Inter, Milan, Napoli, queste squadre così, la Nazionale, la Roma, insomma squadre di un certo rango, se sì, da voi per rubare, cosa mi interessa a me di rubare? A meno che non sia Bari Juve o Bari Milan ad esempio, o Bari Inter, allora è diverso. Ma se no c'è gioco a per dire Bari e Salernitana, ma cosa mi interessa di rubare con la Salernitana? Sono di qua dei cadaveri tutti e due. Figuriamoci un poco. E allora, il calcio è bello per quello, perché bisogna vedere spettacolo, ma quelle squadrette lì spettacolo raramente ne fanno. Oh, vabbè, anche loro qualche volta già vincono, ma comunque è proprio raramente avvenuto, non può pure essere. E io mi sposto che devo buttare la minestra, così non ne mangio. Buttala, buttala, così almeno non ne mangio, va bene, dai, è meglio. mescolala bene, mi gira bene, gira, se non ti si attacca. Trova tutto pronto. Vabbè, quello sì, è vero. Vabbè, già è vicino alla chiesa. A 3-4 metri da Cadaduglia, alla chiesa. No, va a San Sisto lì, non va alla Trinità, no. Ah, San Sisto, dove mi sono cresimato io. Io mi ero cresimato a San Sisto, anche se ero parrocchiano di Santa Polinare. Invece io mi sono sposato a San Sisto. Beh, è quello è importante, già lo credo. Sì, no, io mi sono sposato al Cuore Immacolato, via Gazzeredda, da Ricciobrete, Magnaccio, che c'era prima, perché adesso non c'è più, c'era Pulmuccio, era vecchio quando mi sono coiuto io, sono passati 52 anni subito. Subito, già sono passati già 52 anni, per cui lui sicuramente non ci sarà più, perché era già molto, molto anziano, molto vecchio quando mi sono sposato io. E io sono stato battezzato lì al Cuore Immacolato di Maria, e invece mi sono cresimato al Sacro Cuore. Ho capito, e va bene, anche quello bisognava fare, visto che ci hanno insegnato queste cose. Anche se tutto sommato sono tutti tanti cose, secondo me in un certo senso inutili anche, soprattutto per la gioventù moderna di oggi. E infatti la gioventù moderna di oggi, vi credi poco a questi cose. E infatti vi credi poco, guarda, poco e nulla. Vabbè, comunque, il tempo bene e passa e i tempi cambiano man mano che si va avanti con gli anni, i tempi cambiano in tutto e per tutto. E va bene, e una volta mangiavamo bene di vendetta, mangiavamo di Filippo, allora Filippo non va più, e stanno, se compariamo le gambe se le mangiamo in casa. E infatti, è fermo proprio di così. Ah, già fatto semplicemente. Si ricuciniamo e si rimaniamo. Che lo credo io, ma che? Io ando sempre da Malabesco a comprarli, sono buoni, quelli L1, da 2 kg, raccatto da 2 kg, sono ben buoni. E anche io prendo quelli lì. Prendo, adesso siamo anche fuori. Prendo, gamberoni. Gamberoni, sono i migliori, certo. Va bene, ci sono anche da MD, però quelli da MD sono, intanto sono 800 grammi appena, e poi sono piccoli, non sono di Ghidi Maduri proprio. A me mi piace di Ghidi Maduri, L1, argentini, una scatola da 2 kg, avanza, mi pare che anche tanto mi compaggio 2 scatole, io sì, una me la posso cucinare subito, e l'altra la diremo di scorta, ma la prossima volta. infatti. Mia moglie li prende al mercato, quelli lì, 2 chili, una scatola 2 chili, e so di chi deve dei maduri. Eh sì, se sono L1, sì, se sono L2 sono più piccoli, ma quelli L1 già sono belli e buoni anche, soprattutto. E vabbè, comunque, siamo esani, oggi non lo so cosa, ma giù è la verità. Oh, sento già un profumino, comunque, no, non riesco a distinguere cosa può essere, anche perché sono su io, lui e la cucina è giù, per cui arrivi già raffinato qui. L'odore del pranzo. E infatti poi già per la bocca anch'io, gatta, che fazzi. A me acciappa una moglie di così, gatta, che manco io non dovevo cucinare. No, io non ho di cucinare niente, io ho solo di mangiare, buh. Ho solo di mangiare. Ci avrebbe messo una moglie, ci avrebbe messo. Io al massimo che posso fare durante la giornata da vostra, un caffè romanzano. E non è manco per me che un caffè non è più, se vogliamo. Qualche volta, ma una volta di mamma, voglio un caffè. O qualche volta me lo miscelo un latte così, un po' di caffè. Ma lo posso tutte le manzane, lo posso, e lo posso a mia moglie. Così è da con chi si va, così, all'amico così, chissà, ma che mi fa un pranzo buono, non è compreso, no? Fui buio, no? Beh, se vuoi che l'amore rimantenga, un piatto che andi e l'altro che venga giù. Così dice, lo dice un sassarese. Che l'amore rimantenga, un piatto che andi e l'altro che venga. O meglio, un piatto che andi e l'altro che venga. Detto, è così infatti. Tanto siamo visiosi, capo. Io burro poi che lo caffè a letto, così ero manco mi trattava. Se no, oi oi, ce la pigliamo buona, non dici bene. Si sa, con c'è, ma la verità è di Zeno, Natalino, eh? Di la verità è tu, con c'è. Se mangiando di Natalino, visto che stai lampando la minestra, gli mangiando di no, ci vogliono 15 minuti a cucinare la minestra. Sono cigionetti oggi. Buoni, buoni, buoni. Buoni, ho mangiato io una sera di mani. Le cigionetti. Ora, con un sugo di coso, dell'usa sezione, eccetera, eccetera. E poi, questo mi viene a dire, che la bassetta che sta da dini, minoresi, no? Che vende lì in negozio, sta molto buonissimo. E lo sugo lo sassizzone. C'è buono così. Io invece ho fatto il ragù per oggi, capito? Buoni, buono, buono. Andate. Vabbè, comunque. E cosa vuoi fare che sta vita? Se non pensare a mangiare, intanto. Non possiamo fare, travagliare non possiamo travagliare. Ormai sono che pensione. E si esce un poco. Quando mi tracco di buio, da se posato della cadria mi muoio la poltrona. Quando mi tracco della poltrona mi muoio il baro. Quando accendo il baracchino mi tracco la buio andando al computer e così via. E la buio che andano a mettere in maniera mi mangio, buio un piatto. Che c'è poco ma sicuro. E poi non puoi travagliare per raggiunti i limiti di età, così si risi. E allora, e poi hai bisogno di rifugiarmi, ma tutto sul sacrificio che faccio durante lo manzano, dalla poltrona all'olivano, dall'olivano alla cadena del computer. Qui c'è la fatica, ma almeno ci dici a popolo. Poi ti devi rifare di tutti i sacrifici che hai fatto in 50 anni di travaglio. Mi sembra anche giusto. 50? Tu mi devi rendere conto, 62! 62 anni ho travagliato io. Povero me, capita. Mi gioco a un vecchio e ho cominciato bizzino ancora muculoso a travagliare e mi sono cominciato con bizzino, ha pensato che io invece ho dovuto finire di travagliare, te ne immagini, 62 anni. Non mi ha capitato di sacrifici che hai fatto per mantenere la famiglia e non ti sei accorto che passava il tempo. Ma la, hai capito? Che non ti ho più impegnato, vero, è parisso e dunque sono volavo. Se da voi conto l'ore di travaglio che ti ho fatto, non ho travagliato 60 anni, ma ho travagliato 50 anni. A chi non erano esattamente di 6 ore o 8 ore che si basano oggi nel travaglio, se non erano il minimo 10, 12 e magari dormito e travagliando, che non mi sento l'indomani, organizzandomi tutto lo travaglio per l'indomani, per il conteggio mentale, ma materiale, ma le varie. Se che ti puoi immaginare, non è tutto fare, da poi fare un conto di duri a vedere e di anni. Quando uno ha conto suo è così, babbo, lo mattino si sta sempre contenti, magari dici hai macchina e c'è sempre 20 conti. Purtroppo così, quando uno guida in strada, che si vuole contro suo a travagliare, i sacrifici sono enormi, veramente, però allora così non ha su travaglia tranquillamente, però. Tanto ho fatto 50 anni più di artigiano, da voi tutti quanti altri sono anni di dipendente naturalmente, perché ho cominciato con 10 anni e mezzo, si può immaginare, e ho finito, quanti che ho finito? C'era 5 anni, 6 anni fa, boh, i blessisi vanno, non lo so, forse 7, non lo so, i blessisi, comunque, e tutto 62 anni, farò conto, da 10 anni e mezzo, più 62, tanto quasi, 72 anni, ecco, nasce 81, praticamente 9 anni fa, dai, ha già venuto 9 anni fa. Un attimo giù. Ok. Thank you.